舌根音 k k g g cubo cubo banco banco cane cane coltello coltello gatto gatto gufo gufo gazzella gazzella gorilla gorilla chiave chiave chiodo chiodo chiesa chiesa ghianda ghianda 练习 caro caro gara gara keto keto ghetto ghetto chilo chilo ghisa ghisa colla colla gola gola cupo cupo gusto gusto lacrima lacrima grillo grillo clero clero gleba gleba club club gru gru classe classe grano grano clima clima glicerina glicerina crollo crollo grosso grosso cloro cloro gloria gloria sacro sacro pigro pigro Clara e Carla sono le mie amiche. Il bicchiere è colmo di Coca-Cola. Non conosco la lingua greca. I tuoi guanti sono tutti logori. 谚语 Proverbi. Corvi con corvi non si cavan gli occhi. Parole di santo e unghie di gatto. Tra i due litiganti il terzo gode.